Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Fabio Cantadone in regia, Flavio Suardi in redazione per questa puntata di A Tempo di Sport. Tra poco ci collegheremo con Dario Ricci, come avete sentito nel GR Extra Large, appena finito di nuotare nella piscina mondiale, quindi aspettiamo che prenda un accappatoio e poi parleremo ovviamente di quanto stiamo vedendo in questi giorni, di quanto abbiamo visto ieri con Sua Maestà Federica e quel tempo pazzesco oltre alla medaglia d'oro, viene da dire ovvia. Sentiremo però anche notizie di oggi, perché c'è anche una Federica Pellegrini rabbiosa con le sue compagne di staffetta per batterie gareggiate non benissimo. Italia che prosegue nella sua corsa nella staffetta, però con un tempo piuttosto alto che ha fatto indispettire Federica Pellegrini. Parleremo ovviamente, già vi invito, 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666, del grande rientro, quello di Michael Schumacher ufficialmente al volante della Ferrari. E a questo proposito vi farò sentire anche una battuta della stessa Federica Pellegrini proprio su Schumacher. Però partiamo da un altro argomento, mercato, non necessariamente calcistico. Le piste del mercato oggi ci portano lontano dall'Italia e appunto dal calcio. La notizia è di questa mattina, diventerà ufficiale oggi pomeriggio intorno alle 17, almeno così ci ha detto direttamente Maurizio Gherardini dalla stanza dei bottoni dei Toronto Raptors. Marco Bellinelli raggiungerà la prossima stagione Andrea Bargnani ai Toronto Raptors, appunto per comporre la prima coppia italiana della storia nella NBA. Per questa notizia siamo andati a disturbare dalle vacanze la nostra voce. Dan Peterson, ciao coach. Ciao ragazzi, ma quale vacanze? Okay? Ero qui ad aspettare la vostra telefonata, che altro che storia. Senti, bevi ai Raptors, è grossa questa. Grandi, ma Gherardini e Maurizio Gherardini e Brian Colangelo, loro non dormono, ok? Cioè, loro sono svegli, è una squadra veramente internazionale a dir poco, c'è, cioè, proprio grande mossa, perché adesso Torcoglu, riprendono Carlos Delfino, Bargnani, Calderon, Nesterovic, una squadra veramente FIBA in poche parole, nella città, unica città dell'NBA che è fuori dal confine degli Stati Uniti, anche se è proprio appena oltre il confine, quindi sì. Ha molto, molto significato questo, quindi grande mossa, ma anche per loro, perché hanno bisogno del guardia, hanno ceduto, lasciato libero Anthony Parker, è un buco notevole nella squadra, non hanno avuto produzione di questo ruolo l'anno scorso, opportunità d'oro per Marco Bellinelli, sono contento per Bellinelli, contento per Toronto. Il domandone è: riuscirà ad esplodere definitivamente Bellinelli? Innanzitutto io sono grande credente in Marco Bellinelli, lui è la stoffa. Lui è un atleta, veramente un grande atleta, con grande elevazione, grande coordinazione, uno capace, tipo anche giocatore da playground, capace, come dicono in America, fabbricare il proprio tiro da solo, cioè senza schemi, senza blocchi, senza giocatori, cioè uno contro uno, capace di sconfiggere l'uomo e ottenere ciò che dicono in America, separazione, cioè distanza, separazione fra lui e il suo difensore con i suoi, come fa Kobe Bryant, tanto per dire, che è uno dei modelli di Bellinelli. E voglio rubare un secondo per aggiungere un'altra cosa. Qualche volta gli esperti, e metto fra virgolette la parola esperti, ok, in America dicono ma Bellinelli non difende, questo è ridicolo. Lui è un grande difensore, ho visto lui difendere, anche voi l'avete visto difendere, certo. In Italia ha vinto lo scudetto del 0-5 la Fortitudo, perché lui è sotto di 6 in una partita brutta, gara 4 che hanno vinto per il titolo, secondo tempo tardi, meno 6 in una partita di punteggio bassissimo, lui fa canestro da 3 e sono a meno 3, pressing su Jerry McCullough e con l'apertura di braccia che ha Bellinelli, finta, cioè, tocca la palla con la mano sinistra e con la mano destra va dall'altra parte del corpo di McCullough, recupera la palla, passa Douglas, canestro da 3, pari, e la Fortitudo va avanti e vince lo scudetto. Quindi, coach, anche per l'NBA, per il movimento NBA, questa è un'esperienza interessante, perché non si era mai visto una squadra così europea, no. Così tanto europea, no. Bellinelli-Bargnani, che speriamo di vedere in quintetto entrambi, e sarebbe Bargnani è sicuro, perché il suo ruolo è questo, il Nesterovic sarà in panchina, mi immagino Chris Bosh ovviamente sarà l'ala, ma se qualche volta Nesterovic viene dentro come pivot, Bargnani si sposta alla grande, Turkoglu ala, Bellinelli e Calderon, 5 giocatori FIBA. Sì, cinque giocatori FIBA, mai visto nell'NBA una cosa del genere. Mai. Guarda, forse è successo, magari anche Toronto, perché avevano anche 4-5 lì, 5-6 lì un anno, ma io non me lo ricordo, onestamente, cioè tutti e cinque insieme, soprattutto a Toronto, con Chris Bosh che occupa 40 minuti a partita. Coach, che sensazione ti manda la nazionale di Bargnani e Bellinelli che con la Francia si avvicina? Io sono loro, cioè, questo mi dà una grande carica, sono felice, cioè, se io sono Bellinelli felice di giocare con Bargnani, felice di giocare dove c'è un'opportunità, Bargnani felice di vedere un mio compagno di nazionale e squadra, cioè, mi immagino la felicità di questi due ragazzi adesso è senza freni, ok? Cioè, mi immagino, io sono davvero felice, mi è arrivata la notizia, mi ha chiamato Sport Italia a Marcello Piazzano a darmi la notizia, e ho detto, ma Marcello, stai scherzando? No, coach, è vero, è vero. Allora ero super felice io. Quindi, e subito dopo mi avete chiamato voi, che ho parlato sia con Sport Italia che con voi. Noi abbiamo chiamato Maurizio Gherardini invece, che era impegnato in una riunione, e ha detto: guardate, stasera dopo le 17:30, quando la notizia sarà ufficiale, parlo finché volete. Adesso non è ancora possibile. Stesso Bellinelli, perché abbiamo cercato anche Marco Bellinelli. Dopo le 5:30, tutte le interviste che volete. Domani lo sentiremo, io spero. Coach, mercato NBA comunque è molto più interessante del nostro calcio mercato. Mi sono sorpreso di tante mosse, tanti movimenti, squadra ha cambiato fisionomia e secondo me per la prima volta in molti anni vedo le squadre agire non prendendo il nome, le statistiche e quelle, ma hanno preso il giocatore che servono per la propria squadra. Questo è un esempio classico di Bellinelli, ok? Ma anche Tim Thomas a Dallas, le altre cose, cioè squadre hanno scelto con un'ottica veramente quest'anno per fare una squadra. E visto che Iverson e Marbury, che non fanno squadra, sono a casa. Marbury, tra l'altro, a fare una specie di reality show con le telecamere montate a casa sua, immagini che vanno in giro su internet, cosa anche un po' triste. Il colpo dell'estate però Artest a Los Angeles, mi pare. Come? Artest a Los Angeles il colpo dell'estate. Sì, Artest, e questo, cioè, e ovviamente lama a doppio taglio, però se funziona, se lui vuole vincere il titolo, gioca con Kobe, rispetta la gerarchia, Phil Jackson, grande coach, Lakers, grande società, riescono a gestirlo, ok, è un rischio, però certo, non ho voluto correre. Anche Rasheed Wallace a Boston, ok? Rasheed Wallace a Boston, certo. E quindi loro hanno diverse armi e dicono che Big Baby Glenn Davis potrebbe andare in Knickerbockers, meno colpi di tutti finora. Ma aspettano ancora 12 mesi. Mesi. Ho letto oggi che LeBron sta negoziando in silenzio per rinnovare con Cleveland. Io fino a non vedere lui uscire da Cleveland, sono scettico. Coach, ti voglio chiedere ancora una cosa. Sai, torna Schumacher, no? Ovviamente sulle pagine di tutti i giornali ci sono le foto dei grandi ritorni della storia, e tra queste foto c'è anche quella di Michael Jordan. Ma Schumacher torna con Ferrari? Sì, Schumacher torna con la Ferrari per sostituire Massa per questi gran premi in cui Massa starà fuori. Il ritorno di MJ però fu diverso, cioè lasciò la prima volta in circostanze mai del tutto chiarite, e soprattutto quando era all'apice totale della carriera. Poi c'è stato un ritorno bis, e quello fu un po' più triste, quello con i Wizards. Tu come la pensi su questi grandi ritorni? È sempre un rischio, ma il campione non riesce mai a espellere dal suo organismo l'adrenalina della competizione. Io che ho 73 anni, se domani mi chiedono di tornare su una panchina, c'è una situazione giusta, io ritorno, perché dentro di me c'è sempre quel motore che va rum, rum, rum, rum, così, per dire hai bisogno di scaricare un po' di adrenalina, e quindi siamo tutti così, ok? Senza eccezione. Grandi agonisti, però se torni poi continui a parlare con noi, anche se torni ad allenare. Guarda, se mi trattate meglio io assolutamente, quindi va bene, sono molto contento anche per me, perché mi avete chiamato e mi avete ignorato ignorato tutto il mese di luglio. Adesso ci vuole la notizia bomba, ring il telefono. Guarda, noi quando c'è comunque la no non cercate di recuperare il terreno perduto, amici sportivi, ok? Coach, resti con noi, sei la nostra chiamatemi voce. Chiamatemi quando volete, ok? Grazie, coach. Ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti. Buona estate, coach Peterson, sono grandissimo come sempre. 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Abbiamo aperto con questa notizia della mattina, per l'appunto, che ci sembra abbastanza importante, poi con l'imperdibile Dan Peterson. Adesso però andiamo subito ai mondiali di nuoto a Roma, alle piscine d'oro per l'Italia. Nissan City Cars, welcome to simplicity. Vi presenta Roma 2009, mondiali di nuoto. Piscina in cui ha nuotato questa mattina il nostro inviato Dario Ricci. Avete sentito bene? Salve Carlo, ciao, saluto Dario. A tutti voi. Insomma, stavolta il tuffo non è stato metaforico, c'è stata veramente la possibilità di testare l'acqua in cui nuota Federica Pellegrini, Alessia Filippi, Michael Phelps, grazie a un'iniziativa promossa dagli sponsor tecnici del mondiale. Devo dire, come già ricordavamo in XL, l'acqua sarà stata la stessa, l'aria di Roma era quella, i risultati sono stati nettamente diversi. Col tempo che ho fatto, Carlo, sarei rimasto anche fuori dalla finale, ma dai 100 stile libero, non dei 50 con nuotato. Che costume hai messo? Ho messo il mio costume da mare, che non avevo tempo per entrare in uno dei super body, sì, perché altrimenti avremmo perso anche il collegamento, perché sai che l'operazione è macchinosa, quindi sì, Alla fine mi sono presentato col mio pantaloncino da mare, ho fatto il mio tuffo, però dignitoso insomma, dai, al detta degli altri. Bravo Dario. Senti, ma sentiamo subito Federica Pellegrini, insomma, sì. Che l'altro giorno abbiamo provato a fare giochino, no? La più grande atleta italiana di sempre, e c'è chi ha le sue opinioni, per fortuna abbiamo un'ampia scelta. Federica Pellegrini ieri, dopo la medaglia d'oro, con quel tempo che fatico a commentare, si è autoincoronata, sentiamola. Beh, senza false modestie, pensavo che questo dubbio ormai non ci fosse più, già da qualche record del mondo, quindi... Appunto, senza false modestie sì, mi sento così, anche perché comunque ho fatto 10 record del mondo prima dei 21 anni, ho fatto una medaglia d'oro olimpica, 2 medaglie d'oro del mondo qui, quindi penso proprio di sì. Questa Federica Pellegrini, non so qual è la vostra opinione, ditecelo 800 24 00 24. Io continuo a pensare a quella collezione di medaglie olimpiche di Valentina Vezzali, perché insomma la medaglia olimpica alla fine è quella che pesa di più, al di là di record del mondo che sono comunque fantascienza. Dario, analizzavo la progressione dei record mondiali. Si è passati, dunque, Franziska Van Amstik nel 2002 nuotava i 200 in 1:56.64. Nel 2007 Federica Pellegrini 1:56.47 e ieri 1:52.98. C'è una differenza mostruosa tra queste prestazioni nella cronologia dei record del 200. Ma sì, è impressionante, era chiaramente un processo già avviato ben prima dell'avvento dei super costumi, perché cambiano metodologie e criteri di allenamento eccetera eccetera, poi l'accelerazione che c'è stata adesso è qualcosa di incredibile. Qui praticamente, come un po' sottolineavamo anche ieri, ormai il record del mondo è prassi e abitudine in queste gare. Tra l'altro ieri sui 1500 metri pensiamo a quello che ha fatto il cinese Zhang, autentica outsider, che non solo ha vinto l'oro e quindi stupore da parte di tutti, ma abbassando di 6 secondi circa, se non 7, il precedente primato del mondo. Tra i risultati di ieri, giornata di, insomma, di altro trionfo per Federica Pellegrini, giornata amara per Filippo Magnini, Dario. Sì, giornata amara perché ancora una volta sono pochi centesimi che lo tengono fuori da quello che è la finale più prestigiosa in cui Filippo è bicampione del mondo, la finale dei 100 metri stile libero stasera in programma alle 18:34, 6 centesimi lo separano dall'ultimo qualificato, il francese Busquet, che tra l'altro diventa comunque uno dei protagonisti, ma la situazione un po' l'avevamo analizzata ieri quando avevamo pronosticato che non ce l'avrebbe fatta Filippo a qualificarsi, e il peccato è che diciamo, l'errore tattico della mattina, quando ha interpretato forse in modo troppo conservativo la qualificazione, sia poi abbia avuto come conseguenza poi il mancato accesso in finale, perché sì, il tempo l'ha relegato alla prima corsia, che poi sappiamo lui stesso ha detto che è la più difficile, e poi soprattutto nella batteria in cui non c'era nessuno dei grandi favoriti, Bernard, Cielo, Nistrand erano tutti nell'altra batteria, quindi era una batteria molto equilibrata, ma dove mancava comunque un punto di riferimento, sì, perché se tu vedi Bernard che va in fuga, fa di tutto per stargli dietro, scoppi ma stai dietro. Se vedi un quadro invece dalla prima corsia più omogeneo, non ti rendi conto, eccoli là i 600. Io faccio fatica, onestamente, magari sarò pessimista, ad immaginare per Filippo Magnini un prosieguo di carriera di nuovo da stella dei 100 metri. Però sentiamo che cosa ha detto ieri dopo la gara Dario Ricci. Ho detto peccato perché è sempre per centesimi. Posso, però ripeto, non sono, ho dispiaciuto, però non sono, cioè non mi posso rimproverare niente. Io ho fatto il mio migliore, ce l'ho messa tutta. Sicuramente gareggiare in corsia 1, io che respiro a sinistra, non è una cosa perfetta, perché al ritorno respiravo verso il muro, diciamo. Quindi quando ti mancano quegli ultimi 10 metri e magari devi dare quel qualcosa in più quando non vedi nessuno, io non sapevo in che posizione ero, non sapevo niente. Passaggio buono, perché 23.09 sicuramente ho fatto di nuovo un passaggio veloce senza strappare troppo, però questa volta gli ultimi 10 metri ero proprio morto. Agli ultimi 10 metri ero morto, questo qui sicuramente, il fatto di essere morto quando hai un avversario vicino, riesci bene o male a dare quel qualcosa in più. Quando sei morto e non c'è nessuno, sei da solo e hai solo le tue sensazioni, quindi è un peccato. Però ripeto, delusione, se notavo 48.5 è così. Questa volta sicuramente il fatto di aver iniziato a nuotare comunque bene a gennaio l'ho pagata, tanto comunque si è visto, Phelps ha iniziato a nuotare a gennaio, ha perso le sue gare, ha iniziato a nuotare comunque dopo l'isola bene bene a gennaio, e ho fatto più fatica ad allenarmi rispetto al solito. Le scelte che ho fatto sono scelte personali, quindi purtroppo, cioè, potevo anche decidere di fare l'annata e non fare i mondiali perché magari non mi sentivo pronto, e, cioè, non è che devo fare scelte in base a quello che vogliono gli altri. Io mi sentivo di fare questo programma perché avevo bisogno di staccare, come tutte le persone, quindi non è che do la colpa al fatto che ho fatto il programma. Sicuramente ho fatto più fatica ad allenarmi rispetto agli altri anni, quello è normale. Questo era Filippo Magnini a tutto tondo dopo la gara. Certamente ha inciso anche questo distacco da una carriera agonistica, però in fondo grosso modo sono fatti suoi, come sono fatti suoi la mancanza di risultati e quello che appare a tutti un declino, perché questo è il nome della parabola che sta seguendo Filippo Magnini. Dario, arriviamo ai risultati di oggi, e tra poco sentiamo un'altra versione di Federica Pellegrini ai microfoni Rai, una versione invece polemica per quanto è successo questa mattina in vasca. Che cosa è successo? Allora, partendo dalle notizie assolutamente positive, c'è il record italiano di Loris Facci nei 200 rana e quindi la qualificazione alla semifinale con il terzo tempo alle spalle di Chanteau e Giurta, due grandi interpreti della specialità. In semifinale anche Giorgetti, va in semifinale anche la Scarcella. Invece, per quanto riguarda invece le notizie decisamente meno felici, c'è la prova tutto sommato negativa della staffetta 4x200 stile libero, e da qui le polemiche innescate subito dopo la gara da Federica Pellegrini, perché l'Italia è entrata in finale sì, ma solamente con l'ottavo tempo e dopo una prova di qualificazione completamente in apnea e risolta alla fine solamente dalla straordinaria rimonta proprio di Federica Pellegrini in ultima frazione, dopo che Spagnolo, Zoccari e Carpanese avevano accumulato circa 3 secondi di distacco dalla testa e soprattutto un quinto posto che faceva veramente pensare ad un'eliminazione clamorosa. Stasera in finale entrerà sicuramente anche Alessia Filippi a dar manforte alla squadra, ma ci si aspettava molto molto meglio, Carlo. Allora partiamo da Facci, sentiamo che cosa ha detto e poi andiamo su questo discorso relativo alla staffetta e ai rimproveri di Federica Pellegrino e sue compagne. Facci. Ma devo dire che in realtà me l'aspettavo, ho lavorato abbastanza bene, soprattutto nel periodo invernale, me l'aspettavo. Avevo provato già qualche passaggio un po' più veloce, ho dovuto cambiare tipo di gara perché gli avversari non mi aspettavano più, quindi adesso devo stare un po' più vicino. Come oggi va bene, il terzo 50, sono riuscito ad andare via bene in progressione, poi ho visto che ero davanti, subacquea, ho rallentato un po' per lasciare qualcosa per il pomeriggio. Spero di avvicinare il 2.7, poi vediamo. Questo era Loris Facci, ma adesso sentiamo che cosa ha detto dopo la staffetta di questa mattina Federica Pellegrini a proposito dell'andamento della squadra. Microfoni Rai. C'è un po' di rammarico perché comunque mi aspettavo che le altre ragazze facessero meglio, però capisco che magari abbiano sofferto un po' la tensione, un po' tutto quanto, però... sono molto rammaricata perché credevo molto in questa staffetta. Oggi pomeriggio sicuramente siamo entrate, però insomma mi aspettavo un piazzamento migliore. Così dunque Federica Pellegrini, molto polemica nei confronti delle sue compagne. C'è stata anche una risposta della spagnolo alle critiche mosse da Federica Pellegrini. Vediamo se riusciamo a sentire la staffettista azzurra. Deve essere un'altra gara se vogliamo una medaglia. Poi insomma ci basta anche il terzo posto, non per forza. Oggi ho letto sui giornali, puntiamo a loro. Noi puntiamo a una medaglia, poi quel che arriva insomma lo prendiamo molto volentieri. Cioè dalle mie sensazioni i primi 150 metri speravo di fare 1.58. Poi improvvisamente l'ultima vasca mi sono trovata poi in difficoltà, non riuscivo a spingere fino in fondo. Sarà stata la tensione, come dico, spero sia quella, insomma, buttiamola lì per la tensione, ma io sono sicura che oggi pomeriggio andremo meglio. Dunque botta e risposta, Dario, spogliatoio un po' in ebollizione, però è normale innanzitutto che la capitana, la primatista del mondo sproni le colleghe, anche pubblicamente, non ci trovo nulla di particolarmente scandaloso. Così come può essere anche che il fatto di avere in squadra una fuoriclasse, la più grande fuoriclasse del mondo, magari inconsciamente rilassi un po' chi nuota con lei. Tanto dicono, butto la palla là davanti e c'è Maradona, no? Eh sì, l'idea è di fondo è proprio quella, no? Può essere quella, così come sono d'accordo nel dire che chiaro può far sensazione il fatto che la Pellegrini faccia questo rimprovero pubblico al di fuori delle quattro mura dello spogliatoio, ma meglio farlo al mattino perché poi il pomeriggio si torna in vasca e a quel punto, salvata la baracca e quindi qualificatesi per la finale, a quel punto davvero vale per la medaglia. Allora se c'è qualcosa da dire, meglio dirlo prima. Meglio ragionarci prima, perché queste ore sono preziose per ricaricare le pile e la testa soprattutto. Quindi facciamo la valutazione finale a finale della staffetta conclusa, il via alle 19.38 tra l'altro. Via alle 19.38, abbiamo due ascoltatori, Fabio da Bergamo, Alessio da Cremona, 800 24 00 24, vi ricordo il numero verde. Abbiamo anche diversi messaggi interessanti, su questo si potrebbe anche ragionare, lo scrive Fede, perché Pellegrini e non Vezzali? Il peso specifico del nuoto è enormemente superiore a quello della scherma praticata a buon livello da una decina di paesi. A proposito di confronti, ma sono soltanto una suggestione, un gioco, è chiaro che è possibile confrontare discipline diverse, soprattutto epoche diverse. Però, insomma, il dibattito è aperto sulla più grande sportiva nella storia dello sport italiano. Fabio Bergamo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Niente, volevo fare una piccola riflessione su queste piogge di record, sì, che stanno scendendo ogni volta che scende in vasca. Cioè io sono un po' nostalgico, mi farebbe piacere vedere sti cosiddetti fuori classe coi costumi che usiamo noi comuni mortali quando andiamo a fare le nuotate in vasca, per vedere se sarebbero ancora in grado di battere ogni record, ad ogni gara, ad ogni corsa. Anche per quello credo che un po' la Pellegrini dovrebbe fare un attimino attenzione quando dice che è la più grande di tutti i tempi, perché gli anni indietro non credo che le loro colleghe avessero gli stessi materiali, sì, per cui era un po' più difficile fare questi record, io credo, sì, tenendo, sì, presente che quando comunque uno è forte resta forte. No, non c'è dubbio. Federica Pellegrini non fa un parametro nelle dichiarazioni che abbiamo sentito prima su altre nuotatrici. Il discorso è relativo allo scettro di più grande atleta italiana di ogni epoca. Però è indubbio anche che la progressione di cui si parlava all'inizio, la progressione dei record, insomma, è abbastanza clamorosa, perché si passa nel 2007, la stessa Federica Pellegrini nuotava in 1:56:47, lo ricordo, poi l'Ormanadù 1:55:52, poi la stessa Pellegrini nel 2008 1:55:45, 1:54:82, fino ad arrivare all'1:52:96 di ieri. Onestamente la differenza è abissale. Io credo che i costumi incidano. Credo anche che se togliessimo questi benedetti costumi autogalleggianti si arriverebbe comunque con l'evoluzione della specie nuotatore, con gli allenamenti di adesso, con le tecnologie, lasciando stare discorsi più oscuri, a comunque abbattere questi record, chiaramente con il tempo e non con questa spaventosa frequenza. Alessio Cremona, buongiorno. No. Dica. Complimenti per la trasmissione, mi piace. Grazie. Molto il taglio che date. Sportiva, miglior sportiva italiana di ogni epoca, io voterei Sara Simeoni. Non so se è già stato detto, se forse è una mia impressione perché è influenzato dal fatto che me la ricordo quando ero piccolo, però per quello che ha fatto e per ciò che ha testimoniato, dal mio punto di vista non è neppure paragonabile con Federica Pellegrini, anche sì, perché i risultati da Pellegrini si devono stabilizzare anche nel tempo. Il nuoto è uno sport che va a velocità folle, a Manadù sembra che non sia più nessuno e qualche anno fa era la numero uno. Sì, sì, secondo me bisogna avere un po' di pazienza e di vedere anche tutto lo spettro della carriera. Valentino, certo, Rossi adesso possiamo dire che è il più grande, che è grande come Agostini, però sono 10-15 anni che vince. Dopo le prime tre gare che aveva vinto era un po' presto per dirlo. Non c'è dubbio, però qui abbiamo già 10 record del mondo, abbiamo già una medaglia d'oro olimpica. Sì, però ci sono record e record. Sì. Mennea col 19:72 era un record di un certo peso. Sì. E qua è un record che magari dopo domani viene cancellato. Sì, sì, sì. E sì, poi, come già sottolineava lei, cioè sono tanti questi secondi che sono stati mangiati in così poco tempo. Sono tantissimi. E sarei curioso di provarlo anch'io questo costume per vedere. Io non sono neppure un nuotatore, sono un nuotatore per della domenica. Qual è l'effetto che fa? Guadagno anch'io così tanto nella nuotata, mi sembra troppo. Francamente sembra troppo anche a me, perché insomma 4 secondi grosso modo nel giro di 2 anni sono onestamente un'enormità. Dario Ricci, vuoi aggiungere qualcosa? Poi andiamo alla borsa. Ma direi no, il discorso è questo. È chiaro che anche Sara Simeoni è una delle candidate in lizza, salvando il fatto che chiaramente poi è sempre un gioco da bar, per questo è così popolare e entusiasmante, ma con tutti i limiti del caso. Naturalmente, è solo un gioco. Grazie Dario, alla prossima. Grazie a voi, anzi vi ricordo al volo, alle 17 c'è anche un Serbia-Croazia che vale un posto nella finale di pallanuoto, poi stasera Stati Uniti-Spagna, 2 partite per gli appassionati da non perdere. Perfetto, grazie Dario Ricci. Io ho un sacco di messaggi, diverse richieste di ripetizione della notizia con cui abbiamo aperto questo programma, ed è il passaggio nel basket di Marco Bellinelli ai Toronto Raptors, la franchigia dove già gioca Andrea Bargnani, per una coppia italiana nell'NBA. C'è una notizia di un istante fa ed è questa: l'Unione Ciclistica Internazionale ha deciso di allungare la squalifica di Riccardo Ricco di 4 mesi. Ricco era stato trovato positivo all'EPO di ultima generazione durante il Tour de France 2008 ed era stato squalificato dal CONI per 24 mesi, poi squalifica ridotta dal TAS lo scorso marzo a 20 mesi, ora l'UCI di nuovo allunga la squalifica a Ricco, riportandola alle proporzioni originali, 24 mesi, squalifica che si concluderà il 17 luglio 2010, quindi la prossima stagione è per questioni di tempi ampiamente compromessa per Riccardo Ricco. Diversi messaggi anche: Pellegrini la più forte, forse, di sicuro se continua così non sarà mai la più amata, ma sono gli psicologi che le rendono antipatiche, pure la Filippi, scrive un ascoltatore. Oppure Omar, il discorso di Magnini può andare bene per un dilettante, Un professionista deve trovare motivazioni negli ultimi 10 metri anche respirando verso il muro. Sì, però questo della corsia numero uno in effetti è un discorso tecnico non da dilettante ma da professionista, questo non per difendere Magnini, piuttosto magari non da campione del mondo e non da così da atleta di punta. È stata la decisione di Magnini, come avete sentito da lui stessa spiegata, di fare altro nell'anno in cui c'erano i mondiali in casa. Abbiamo un ascoltatore che è Vladi dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno signor Cruciani. No, non sono Cruciani. Praticamente mi hanno rubato i primi vostri ascoltatori, cioè sì. Da Bergamo e da Cremona. Io volevo attaccare il problema per i costumi, sì. I materiali. Mi scusi, ma non si potrebbe fare un para mondiali che corrono tutti, cioè nuotano tutti in calzoncini e vabbè, le ragazze in completo, ma pulito, cioè cotone, così come si faceva prima. Para mondiali no, si tratta, come nella Formula 1, insomma, si tratta di raggiungere un accordo, di fare le cose chiaramente, di prendere una decisione che sia univoca e che, insomma, se non d'accordo tutti, che metta tutti nelle medesime condizioni. Io sono scettico su questa trovata dei costumi galleggianti. È vero, come sottolinea qualcuno facendo discorsi di biciclette, di coppi, di quelle attuali, eccetera, che c'è un'evoluzione dei materiali, però ci devono essere anche dei limiti all'incidenza dei materiali sulla prestazione agonistica. Questa è la mia opinione, ma vale esattamente come quella contraria. Adesso andiamo però a commentare la notizia del ritorno dell'anno, che non può che essere quello di Michael Schumacher. Ne abbiamo già parlato, ne parlavamo già nei giorni scorsi, lunedì facevamo questi discorsi, quando era tutto in ballo, in discussione, in divenire Gené, Badoer, un giovane eccetera. Invece, altro che giovane, torna il vecchio Michael, il più grande di sempre, alla guida della Ferrari, e in attesa di vedersi ristabilire, speriamo, e anzi leggendo le notizie c'è poco da dubitarne, Felipe Massa il più rapidamente possibile. Intanto ricomincia un'era Schumacher. Mario Poltronieri, buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo, eccoci qua. Allora, diciamo che l'operazione è sicuramente dal punto di vista mediatico sensazionale. Secondo me, l'avevo accennato forse nei giorni scorsi, Schumi ha accettato non solo perché questo ovviamente gli consente di prolungare il rapporto di collaborazione con la Ferrari, che sarebbe scaduto quest'anno, e magari di incrementarlo, nel senso di non essere un consulente non ben identificato nelle sue funzioni, ma naturalmente ha comportato anche un grosso vantaggio appunto per lui, perché lo rilancia, tutto l'indotto che girava attorno a lui probabilmente riprende, quindi c'è sicuramente la gratitudine nei confronti della Ferrari, anche nei confronti di chi tutto sommato lo aveva costretto tra virgolette a ritirarsi un anno prima di quello che lui aveva pensato. Quindi diciamo che sotto tutti i punti di vista, per quello che riguarda appunto comunicazione, marketing, utilità, simpatia eccetera, è tutto perfetto. Poi si tratterà di vedere quando va in pista che cosa riesce realmente a fare con una macchina che, nonostante il secondo posto di Raikkonen nella gara precedente, non sembra ai vertici come le altre. A titolo di curiosità, vedevo che le prime indicazioni sulle scommesse davano Vettel a 2,75 nel prossimo Gran Premio d'Europa a Valencia, Button a 5, Webber a 6, Hamilton a 8, Schumacher e Raikkonen, cioè i due ferraristi, a 11 e Barrichello a 20. Sì. Quindi vuol dire che nell'ambito delle scommesse, dove sono sempre molto colati, non ritengono che per lui sia facile vincere, ma d'altra parte lui partecipa innanzitutto per dare una mano alla Ferrari e poi probabilmente per cercare di dare migliori prestazioni a una macchina che quest'anno non è riuscita benissimo. Sì. Qualcuno dei tecnici dubita che lui possa fare un grande risultato, perché è un tipo di macchina che non si adatta alla sua guida, però lui è così bravo che magari riesce ad adattarsi invece alla macchina di quest'anno. E vabbè, guarda, ci sono mille risvolti che ci incolleranno alla fine di agosto al televisore dal 21 di agosto a vedere Michael Schumacher su quella macchina. Quindi ci sono mille pro e contro, mille argomenti di discussione. Io sono curioso anche di sapere l'opinione dei nostri ascoltatori su questo grande ritorno, 800240024. Di sicuro è un ritorno molto rischioso per lui e di sicuro è un'insperata botta di fortuna per tutto il circus. Io immagino Bernie Ecclestone che si frega le mani senza aver tirato fuori un soldo, soprattutto senza aver tirato fuori, gli tira fuori la Ferrari quelli. Ecco, ma da questa diciamo notizia bomba ce n'è un'altra che è passata un po' sotto traccia, ma è il discorso della BMW, sì, certo. Cioè il ritiro della BMW che è importantissimo, perché ribadisce quelli che erano gli indirizzi che, sbagliando comunque il modo di proporre l'approccio, eccetera, aveva dato Mosley. Sì. Perché il consiglio di amministrazione della BMW ha detto: le risorse devono essere dedicate allo sviluppo di nuovi progetti e di tecnologie che vadano nella direzione della sostenibilità e della compatibilità ambientale. Cioè il discorso che noi stessi facciamo da sempre, sì, e che la Formula 1 fa finta di ignorare. Sì Mario, però non è che possa pesare, al di là di questi discorsi che senz'altro hanno un fondamento, non è che possa piuttosto pesare una classifica che dice che la BMW è la terza peggiore macchina in questa edizione, che spende un mucchio di soldi, che si gioca un'immagine importante con competitors che sono produttori di auto di alto livello, e prenderle tutte le sante domeniche possa dare fastidio, possa deteriorare l'immagine, possa fare male al di là della questione economica? Penso però che incida nell'ordine del 20-30%, perché la mia da quando è rilevato da Peter Sauber, che forse la riprenderà anche su dei dubbi, e la squadra non è che abbia mai ottenuto dei grandissimi risultati. Ha fatto poi questo tentativo del KERS e l'ha imposto praticamente a tutti, poi è stata la prima ad abbandonarlo ed è quella che non l'ha sviluppato, e questa era l'unica ricerca proprio nel senso della compatibilità ambientale. Però io credo che il discorso sia un pochettino più vasto, e cioè la BMW, come la Honda lo scorso anno, si ritira, ma ci sono delle altre squadre che potrebbero ritirarsi, quindi torna valido il discorso che bisogna fare un campionato che costi meno. E a questo punto, visto che per combinazione ieri sera abbiamo visto quel facsimile di squadra che si chiama Milan a perdere 4-1 nel trofeo Audi, ecco, si festeggiavano i 100 anni dell'Audi. L'Audi non ha mai voluto fare la Formula 1 perché il nipote di Ferdinando Porsche ha sempre detto: la Formula 1 per le nostre automobili non è interessante, noi facciamo delle automobili da corsa che devono servire allo sviluppo della serie. Noi abbiamo fatto il diesel 10 cilindri che vince le 24 ore di Le Mans, eccetera eccetera, e dimostriamo agli americani che otteniamo le stesse prestazioni consumando un terzo. Questo secondo me è purtroppo l'indirizzo. A me era piaciuto quando Montezemolo ha detto: ah, se non si va andiamo a correre le 24 ore di Le Mans. Era un'ottima idea, perché la Ferrari ha una storia nei prototipi e nello sport eccezionale, ed è più coerente col tipo di macchina che loro vendono. Questo è il discorso. E però la Formula 1 rimane comunque la più grande vetrina che c'è, dunque... Per adesso sì. Sì, per adesso non c'è dubbio. Poi è tornato il padrone delle piste, anche se questa pista non la conosce, quella di Valencia, ed è un altro dei mille risvolti per cui nel weekend del 21 agosto saremo tutti lì, paf, incollati alla televisione per vedere Michael Schumacher su una Ferrari che non conosce, su una pista che non conosce, dopo una montagna di giorni di lontananza dai circuiti. Sentivo prima anche una notizia secondo cui, come sapete, per regolamento si va tutti in vacanza, stabilimenti blindati dal 3 al 16 agosto per legge interna, ecco, alla FIA. Non sono possibili prove, non potrà provare la macchina nuova, non ne potrà provare un'altra. Sentivo prima una notizia, non so quanto fondata, secondo cui potrebbe farsi prestare da un amico collezionista una macchina del 2008, affittare un circuito e andarla a guidare un po' lì, tanto per riprendere confidenza con quel volante, insomma. Opinioni degli ascoltatori, Cesare da Latina, poi Paolo, poi Fabio da Reggio Emilia. Cesare, buongiorno. Sì, buongiorno gente, buongiorno. Dica. Stavo ridendo sulla battuta del fatto che non si possono fare le prove in questi 15 giorni. Per regolamento. Si vieta alle scuderie, anche nella loro azienda, di fare le prove, forse per ridurre i costi, e poi dopo si fanno investire centinaia di milioni di euro per il KERS e a fine anno sarà buttato. Mm-hmm. Questi sono i paradossi di questa Formula 1, che non capirò mai, con queste regole che vanno e vengono, ritornano. L'anno prossimo mi sembra che non si farà più un'altra volta rifornimento. Quindi non la capirò mai, forse va fascino per questo fatto, questo sport. Sì, perché è abbastanza difficile da capire, soprattutto è difficile stare dietro alle continue evoluzioni, ai continui sviluppi regolamentari. Non capisco perché io nella mia azienda, cioè io non posso approvare delle evoluzioni del mio prodotto. Cioè io quale tipo di attività professionale, questo vabbè. Sì, no, ma è abbastanza cervellotica il discorso. Lei ha ragione, si vogliono ridurre i costi. Poi la BMW sviluppa un KERS spendendo una montagna di soldi, lo butta nel cestino e poi si ritira dalle corse. Mario, abbiamo torto, secondo te? No, avete perfettamente ragione. Perché oltretutto, visto adesso l'incidente di Massa ha avuto altre origini, per quanto sempre imputabile evidentemente o un pezzo non diciamo posto o mal montato. Dicevo, oltretutto non fare le prove vuol dire mettere in condizioni di maggior pericolo, perché praticamente il venerdì mattina tutti sono costretti a concentrare in quelle poche ore il collaudi che normalmente avrebbero fatto in una settimana. Tant'è vero che tu suggerivi l'ipotesi appunto di Schumi che va con una vettura 2008 eccetera, gli conviene andare col simulatore perché è più vicino alle caratteristiche delle macchine di quest'anno. Lui per impadronirsi della vettura ci mette relativamente poco tempo. Si tratta di vedere se riesce ad adattarla al suo tipo di guida, perché è una vettura questa qua che ha un tipo di sovrasterzo che a lui non piace. Quindi bisogna vedere in che misura lo può modificare, dopodiché sicuramente lui è in condizioni fisiche per poter reggere senz'altro la corsa, soprattutto perché ci sono 3 settimane di tempo in cui fisicamente e psicologicamente si può preparare. Poi per un maniaco come Schumacher non abbiamo dubbi, sarà già lì a correre, a prepararsi, a mettere a posto la schiena, insomma a curare ogni minimo dettaglio, anche se pure questi delle condizioni fisiche, della mancanza di abitudine eccetera eccetera sono parte di quel pacchetto che ci incollerà la TV, come di cui sopra. C'è poi anche il discorso Raikkonen, tra Schumacher e Raikkonen non c'è mai stata simpatia, anzi c'è una corrisposta antipatia e saranno uno accanto all'altro. Non so se in mezzo ci sarà un muro come quello che divide Valentino Rossi e Lorenzo, immagino di no. Paolo Bergamo, buongiorno. Buongiorno a voi. La mia considerazione sul rientro di Schumacher in Formula 1 è questa. Secondo me ha molto da perdere sia lui che la Ferrari più di quanto abbiano da guadagnare. La Ferrari, perché la Ferrari, Paolo? Schumacher lo capisco. Perché secondo me se Schumacher non dovesse riuscire a ottenere quei risultati che i tifosi si aspettano, anche se magari non lo dicono, la Ferrari sarebbe comunque la macchina che non ha permesso al grande campione di esprimersi, quindi vuol dire che la Ferrari quest'anno fa veramente pietà. Se invece non dovesse riuscire, anche Schumacher direbbero invecchiato, non riesce più come prima. Sì. No, sul fatto che Schumacher rischi tantissimo, molto di più di quanto eravamo disposti a concedergli, vista la sua personalità. Ha raccolto una sfida vero, non di poco conto. E in tutto questo ci guadagna sicuramente la federazione, io sono sicuro che triplicheranno gli ascolti. Ma non c'è il minimo dubbio, caro Paolo, non c'è il minimo dubbio su questo. Le sue considerazioni sono però condivisibili, almeno dal mio punto di vista. Mario, dal tuo? Sì, ma senza dubbio, oddio, ti dirò, la macchina di quest'anno non è molto felice, quindi se non ottiene i risultati... Se non ottiene i risultati è insomma un po' quello che ci si aspetta. Non credo che lui ne abbia un grande danno. E più sgradevole è per tutto l'entourage dei piloti che non sono stati chiamati, a cominciare da Genet, da collaudatore, e se lui ottenesse un grande risultato dimostra che tutto il resto della banda evidentemente è molto scarso. Quindi diciamo che alla Ferrari hanno rischiato soprattutto in quel senso lì, cioè si dimostrerebbe che la campagna acquisti che è stata fatta non era quella necessaria per riuscire a ottenere i risultati che la Ferrari si aspettava. No. Cioè, non è vero che oggi le corse le vincono soprattutto le automobili, quindi un'automobile che è riuscita bene consente anche a un pilota di media levatura di fare delle ottime prestazioni, però nel caso specifico della Ferrari loro devono conservare un certo tipo di immagine, e la presenza di Schumi può naturalmente danneggiare se non fa una grandissima prestazione, però la Ferrari può sempre giustificarsi dicendo: noi abbiamo provato, purtroppo lui non era all'altezza. Sì, quindi sì. E lui danno non ne ha assolutamente sotto questo profilo, perché in fin dei conti, da quando si è ritirato nel 2006, ha sempre continuato a giocare con i motori. Ma certo. Ha fatto la moto, ha fatto Superbike, ha fatto tutto quello che poteva fare, quindi continua, per cui gli si è offerta un'occasione in più per poter tornare nell'ambiente che lui tutto sommato poi non voleva neanche abbandonare subito. Certo, certo. No, io penso che al di là appunto del successo che comunque avrà l'operazione, non è una scelta sbagliata. Tecnicamente io avrei preso il collaudatore, ovviamente, ma questo si giustificherebbe se la macchina fosse vincente. Sì, no, non c'è dubbio. Poi va detto anche che comunque nelle ultime due corse sappiamo come quella di domenica sia scarsamente indicativa, vista la particolarità del circuito su cui si è gareggiato, però va detto che nelle ultime corse qualche progresso della Ferrari è stato fatto, un piccolo gap è stato colmato, ci sono Lebron, lo dicevamo l'altro giorno, se non in caduta libera, in difficoltà, e quindi la macchina non è più così scarsa, così inguidabile, così poco performante come all'inizio. Fabio Reggio Emilia, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno. No, io volevo essere in disaccordo un po' con te e con l'ascoltatore di prima, perché io non sono un grande fan di Schumacher, nonostante abito 10 km da Maranello, però secondo me sta bene il movimento, il suo rientro, anche perché quest'anno, vuoi per il campionato un po' particolare, con dei protagonisti non certo attesi, un po' per la crisi di Ferrari, McLaren e il loro ritardo nella messa a punto dell'auto, secondo me crea comunque attenzione su uno sport che ultimamente sta perdendo molto, secondo me. Anche l'attenzione di quanto se ne parla in giro della Formula 1, che sicuramente è molto meno degli anni scorsi. E non si vede un grande rischio per Schumacher, perché effettivamente la Ferrari ha un gap talmente elevato in questo momento sulle altre auto che non ha molto da perdere in due o tre gare. Sappiamo comunque che è Schumacher e sappiamo che è a sostituire il povero Massa che si è fatto male. Sì, quindi sì. Non lo vedo come un grande rischio. Mentre una cosa simpatica che ho appena ascoltato, perché rientro ora dalla Germania, dove non si parla di altro di Schumacher ovviamente, è che andarci piano e dire che Schumacher fa questo per fare un piacere alla Ferrari, perché ricordiamo che con quello che ha incassato dalla Ferrari Schumacher poteva comprare due volte l'auto, perché adesso è in crisi. Sì. E questo l'ha fatto un pochino, ma poi non lo fa gratis, no, perché Schumacher gratis non infila neanche il passamontagna, prenderà dei quattrini, si parla di un milioncino a gran premio, e io penso, Mario, che si arriverà così alla fine della stagione, perché io non credo in un recupero lampo, non converrebbe a nessuno un recupero lampo, forzare i tempi per il recupero di Massa, perché insomma bisogna essere non stare bene, non essere in forma, non rimettersi eccetera, bisogna essere in condizione di guidare quelle macchine. Certo, io non credo che Massa lo sarà così presto come si vuole forse far credere. No, ma sono convinto anch'io, perché più presto cercherà di essere sulla macchina per provare, ma anche se lui naturalmente spingerà, perché è tipo sì, che non è come Schumi. Ecco, Schumi o Lauda sono appunto teutonicamente molto precisi, io posso arrivare fin lì, di più non posso e smetto. Invece Massa è un entusiasta, quindi forse per lui tornerebbe a correre dopodomani, vediamo come va a finire. Quindi senza dubbio si farà tutta la stagione Schumacher, perché non credo che Massa possa recuperare tutto, però sicuramente in questi giorni qualche notizia migliore è venuta, perché io ero rimasto molto impressionato dal discorso dell'occhio, perché come ho avuto occasione di ricordare anche altre volte, ma prendiamone uno, e cioè il mitico Stirling Moss ha dovuto smettere di correre proprio perché l'occhio non rispondeva più con la precisione indispensabile per guidare una macchina da corsa, mentre invece per fare la vita normale non si accorgeva nemmeno di avere questo disturbo all'occhio. Quindi bisognerà vedere lui se realmente potrà recuperare. Quella botta in quel punto lì è stata discutibilmente molto forte. è stato comunque fortunato, poverino, perché poteva essere ben peggio. E qui potremmo chiudere sul discorso della squalifica della Renault. Sì, certo. Perché adesso si riuniscono il 18 e probabilmente, io penso, daranno una multa, perché sono rimasti sotto l'impressione dell'incidente di Massa e quindi la storia della perdita della ruota dopo una settimana in cui era morto il figlio di Surtees per una ruota in testa. È chiaro che naturalmente i commissari si sono sentiti responsabilizzati. Sì, la suggestione del momento, la suggestione del momento, delle circostanze adesso, sfavorevoli. Ecco, però insomma, in un circuito per giunto spagnolo, d'accordo che adesso abbiamo naturalmente il fenomeno Schumi, però lo stesso Alonso è importante per loro averlo in pista. E poi, come ti dico, mi sembra una punizione eccessivamente severa. Probabilmente Briatore ha già alzato la forca alla 40, che era il responsabile della ruota. Comunque io penso pensato subito dopo aver visto quella ruota che partiva, ma poi ho sentito anche delle dichiarazioni così, piuttosto buoniste di un Alonso, che mi fa pensare che non sia più così particolarmente motivato, no, quest'ansia. Cose che possono succedere, insomma. Tutto, volavi una ruota, ma sì, può capitare, sono incidenti di pista, mica tanto, eh. Insomma, oddio, ti dirò, una volta succedevano abbastanza spesso, mi ricordo, non so se dove, ma a Mansell era successa una cosa del genere, che aveva perso la ruota perché era stata molto male. Sai, anche qui siamo ai famosi Jedi dello spettacolo, cioè la necessità di fare le soste per cambiare le gomme in modo che ci sia questa aggiunta di spettacolo se in pista non si sorpassano mai. È chiaro che invece se uno volesse fare le cose diciamo tranquillamente, le fa come nelle corse americane, dove tu hai un tempo limite abbondante in cui puoi fare bene le operazioni, quindi sai che la macchina parte ed è sicuramente tutto a posto, perché si fanno le verifiche eccetera. Lì invece, come ti dico, 4 secondi di cambiare le gomme, 7 secondi di aver fatto benzina, e poi è chiaro che qualche cosa può anche succedere. E ti dirò che rispetto al passato io trovo che sono molto migliorati, sì, perché sono rarissimi questi incidenti. Ah, no, non c'è dubbio, soprattutto considerata la frequenza e anche la velocità di questi sì, interventi. Mario, ti ringrazio, ci sentiamo presto, perché notizie si rincorrono. Grazie a Mario Poltronieri. Dunque, ci fermiamo qui. Grazie a Flavio Suardi per il lavoro in redazione, a Fabio Cantadoro in regia. Torniamo domani pomeriggio alle 14. Buona giornata a tutti.